I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Sì, oggi parliamo di Svizzera, anzi parliamo di banche svizzere che a quanto pare sono davvero vicine al momento in cui diranno addio al loro solidissimo segreto bancario. I governi di Berna e di Roma si preparano infatti a firmare un accordo storico che di fatto alzerà definitivamente il velo sui nomi dei titolari di conti bancari nella Confederazione. Un vizietto, quello del conto a Lugano, non proprio sconosciuto ai nostri connazionali. Secondo stime ritenute attendibili, nei forzieri delle banche elvetiche sarebbero custoditi circa 200 miliardi esportati illegalmente oltralpe dai cittadini italiani. L'accordo tra l'Italia e la Svizzera prevede semplicemente l'obbligo per i due paesi di scambiarsi informazioni sui conti intestati ai rispettivi cittadini. In altre parole, il fisco italiano potrà sapere tutto sui conti degli italiani nelle banche svizzere. Così, per esempio, potrà scoprire se sui soldi portati all'estero sono state pagate le tasse in Italia oppure se, come spesso accade, quei risparmi derivano da evasione fiscale. Naturalmente ora resta da capire se l'accordo funzionerà davvero. L'impressione è che la strada sia segnata. La Svizzera ha siglato accordi simili anche con altri paesi e si è impegnata a livello internazionale per abbandonare il segreto bancario. Gli italiani che hanno ancora soldi negli istituti svizzeri lo sanno bene e per loro la sola via d'uscita sembra essere quella di aderire alla chance offerta dalla legge sul rientro dei capitali in Italia. Si pagano tutte le tasse evase, ma almeno si evita il rischio di finire in carcere. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Se il cavallo non vuole bere, per quanta acqua tu gli darai, non berrà. Recita così un vecchio adagio della teoria economica che spiega molto bene quanto oggi illustrato dall'Istat. L'Istat infatti fa notare come l'effetto degli 80 euro agli italiani si sia fatto sentire per quello che riguarda il reddito delle famiglie. Infatti nel terzo trimestre il reddito disponibile delle famiglie italiane è tornato a crescere con un aumento dell'1,8% precedente sul trimestre prima e dell'1,4% rispetto ad un anno prima. Si tratta dei primi tre mesi in cui gli 80 euro hanno funzionato a pieno regime e tra l'altro i primi nove mesi dell'anno chiudono con un più 1%. Sale quindi il reddito disponibile delle famiglie, effetto 80 euro, ma i consumi sono al palo, se non in alcuni casi e per alcuni settori in calo. Come spiegarlo? Appunto con il cavallo. La fiducia dei consumatori italiani è ancora bassa, bassissima, si preferisce, lo dice la stessa Istat, mettere questi soldi arrivati in busta paga sotto il materasso, o per meglio dire come risparmio, e non si aumentano i consumi. A questo punto, oltre agli 80 euro, per far bere il cavallo occorrerà ripristinare la variabile che adesso risulta più assente, la fiducia che le misure resteranno strutturali, la fiducia che l'Italia ha imboccato seriamente la strada delle riforme e della crescita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.